Radio Onda Rossa 87.9, la modulazione di frequenza. Ci ascoltate qui e anche in streaming dal sito internet della radio ondarossa.info, sull'home page ci ascolta la diretta. Siamo al cinema, visionari, e questa è l'ultima puntata, ma ne parleremo in maniera un po' più diffusa nella parte conclusiva della trasmissione. Comunque, tutte le informazioni sulla scaletta di oggi e sulla trasmissione in generale le trovate sul sito internet della radio ondarossa.info, sull'home page c'è sull'home page colonna centrale alla voce trasmissioni radioteatro visionari, l'indirizzo di posta elettronica è visionari@ondarossa.info e tutte le informazioni le trovate anche sulla pagina Facebook Visionari Radio Onda Rossa. Abbiamo con noi il nostro primo ospite della giornata. Ci sei? Pronto? Ci sono, buongiorno a tutti. Allora, per parlare con Pietro Iona, che è co-regista del documentario Country for Old Men, che è al 29esimo Trieste Film Festival, festival che comincia domani e va avanti fino al 28 gennaio. Allora Pietro, intanto ti chiedo subito quali saranno i giorni di proiezione. Allora, spero di non dirti una stupidaggine subito così, dovrebbe essere il 21. Ok. Giorno unico, direi. Perfetto. Allora, per chi ci ascolta, chiaramente diciamo di cosa si tratta, di cosa si parla in questo documentario. Sì, guarda, si tratta di una situazione locale specifica di un paesino in Ecuador, in mezzo alle Ande, ma di fatto di una situazione che è venuta a creare un po' in tutto il pianeta. Si parla di questa comunità di anziani americani in pensione, in età di pensione, che si ritirano in Ecuador perché i loro soldi gli permettono di fare una vita migliore lì piuttosto che a casa loro. C'è una grande varietà di personaggi, per cui ci sono quelli che si definiscono rifugiati economici e che quindi hanno fatto la scelta di emigrare in Ecuador per sopravvivere, e ci sono invece quelli che stavano ancora abbastanza bene negli Stati Uniti, ma che dopo la crisi del 2008, dei mutui subprime e la crisi economica che ha colpito tutto il pianeta, hanno deciso di andare lì per stare meglio, diciamo. Senti, è un po' quello che succede, sì, diciamo, ai nostri pensionati che vanno alle Canarie o in Thailandia o in Romania, insomma. Come siete venuti a conoscenza di questa storia e come avete poi pensato a filmarla e farne un documentario? Allora, guarda, la storia siamo venuti a conoscenza perché una mia amica, una comune amica, lavorava in Ecuador circa 3 anni fa e aveva notato questa cosa, me ne aveva parlato e quindi abbiamo deciso di fare un primo viaggio di documentazione per capire se era una storia che avesse un senso raccontare, se fosse raccontabile. Quindi ho fatto un primo giro io da solo, però mi sono portato già una camera, una telecamera, e insomma abbiamo capito che era una storia che aveva un senso perché ad esempio in rete è pieno di forum o di siti, addirittura di agenzie che aiutano la migrazione perché è appunto una situazione abbastanza universale questa e ci si trova in questo paesino che è un po' una via di mezzo tra un club mediterraneo e un ospizio in cui questi signori anziani si aggirano facendo praticamente nulla, ma facendo passare la vita, insomma. Senti, poi c'è una sorta di narratore, un tassista tuttofare, che fa notare una cosa molto interessante. Lui ha avuto un'esperienza negli Stati Uniti e lì la prima cosa che gli hanno detto è che devi imparare la lingua. All'inverso, certo, invece, gli statunitensi che vanno in Ecuador continuano per la maggior parte a mantenere la propria lingua e a isolarsi comunque dal resto del mondo. Sì, diciamo che anche qui la situazione varia. Noi abbiamo fatto una scelta di personaggi e anche ai fini proprio della narrazione, magari alcuni sono un po' più beceri, un po' più, se vuoi, comici, e alcuni di questi veramente non parlano spagnolo e non hanno nessun intento di impararlo. Detto questo, è chiaro che la situazione di potere data dal benessere, dalla disponibilità economica fa sì che loro si possano permettere, molti di loro si possono permettere di non parlare spagnolo, molto di più di quanto il nostro tassista immigrato clandestino negli Stati Uniti potesse permettersi di non parlare l'inglese quando stava a Fort Lauderdale in Florida. Detto questo, è anche vero che alcuni di loro invece si impegnano e cercano di imparare due parole. Non tutti sono sbuffoni, diciamo, non tutti ricercano l'isolamento e la pace, identificano la pace con l'isolamento totale. Sì, diciamo. Sì, sì. Ecco, bisogna anche dire questo, chiedo sì. Scusa, non, quasi tutte le persone che abbiamo incontrato arrivano dagli stati, diciamo, del Midwest, del Sud, degli Stati Uniti, ben pochi arrivano dalle coste, cioè molti di loro non hanno veramente gli strumenti culturali per adattarsi, per integrarsi veramente in una società nuova. Cioè c'è un freno dato sia dalla provenienza proprio culturale, in secondo luogo dall'età che è avanzata, e sì, e sì. Poi è chiaro che insomma non è così semplice. Molti americani hanno viaggiato tanto, ma hanno viaggiato tanto all'interno degli Stati Uniti per tutta la vita, quello è il primo viaggio che fanno, vero? Sì, quindi sì. È proprio un problema di strumenti culturali, secondo me, più prima ancora che di atteggiamenti, diciamo. Sì. E un altro elemento rispetto alla varietà degli interlocutori di cui mi parlavi è il fatto, ad esempio, che alcuni sono andati via dagli Stati Uniti dove proprio anche per un problema di violenza, le armi e gli omicidi che sono quasi la normalità negli Stati Uniti, mentre lì insomma la violenza è ben poca cosa, certo. E d'altro canto invece c'è chi arriva lì e comunque si blinda dentro la propria abitazione, la propria villa. Assolutamente, guarda, riguardo il campione, cioè si può dire che le persone che abbiamo incontrato a Cotacachi siano veramente un campione abbastanza rappresentativo della società americana, nel senso che hai veramente il redneck repubblicano da Tea Party, iperconservatore, che dice il difetto di questo paese è che non si possono avere le armi e trovi invece il democratico che fugge dall'America anche perché dice non se ne può più di stragi e di morti per armi da fuoco, quindi veramente anche qui la varietà è abbastanza notevole. Sì. Detto questo, la questione del chiudersi dentro i muri, anche qui da una parte c'è la paura, la paura che secondo me non è tanto motivata da pregiudizi di tipo razziale, quanto piuttosto dalla sensazione di insicurezza portata più dall'età e dal sentirsi un po' un pesce fuor d'acqua, non integrato. E poi la questione dei muri, tutto sommato, ci abbiamo pensato spesso con Stefano Cravero, che è il ragazzo con cui ho diretto e girato il documentario, è veramente legata più forse una questione di ricchezza, di differenza di ricchezza, più che di etnia, di razza, di provenienza. Tutto sommato le gated communities, le comunità chiuse dentro i muraglioni, in America Latina, in Asia, ma anche in Occidente, esistono, ed esistono nei paesi in cui i cittadini più ricchi cercano di difendersi da quelli più poveri, prima ancora che dagli stranieri, diciamo. Sì. Senti, che percorso sta facendo il vostro lavoro? Allora, il nostro lavoro sta nascendo, nel senso che questa è la sua uscita prima e ufficiale, quindi spero che sarà un percorso lungo e ricco di soddisfazioni, ma comunque sia è partito ora, esiste da fra qualche giorno. Bene, allora ci lasci tutti i riferimenti web per saperne di più? Sì, beh, innanzitutto il sito del Trieste Film Festival e poi quello di Graffiti Doc, che è la casa di produzione che ci ha permesso di girarlo. Non c'è un sito del film, quindi questi sono i due primi le due indicazioni che ti posso dare, diciamo. Benissimo, allora io ti ringrazio, Pietro, un abbraccio, un buon proseguimento e a risentirci presto. Grazie mille a te, ciao a tutti. Ciao, ciao, ciao. Pietro Iona, co-regista del documentario Country for Old Men, al 29esimo Trieste Film Festival il 21 gennaio. Francesco Notarangelo di Mescalito Film per parlare della distribuzione di Poesia senza fine di Alejandro Jodorowsky in uscita in sala oggi, giovedì 18 gennaio. Francesco, benvenuto a Visionari su Radio Onda Rossa. Grazie mille, buongiorno a tutti. Ne avevamo già parlato del film con i tipi del Detour, dove è stato in programmazione e continua ad essere in programmazione. Visto che siamo con te della Mescalito, ci torniamo sopra e intanto lo raccontiamo per sommi capi a chi ci sta ascoltando. Ma certo, assolutamente. Tengo a dire che a Detour abbiamo fatto delle anteprime in esclusiva, appunto per creare un certo passaparole e poi per riuscire a distribuirlo in maniera ramificata e capillare in tutta Italia. Sì. E Poesia senza fine fa parte di una trilogia del maestro Jodorowsky e il primo film è La danza della realtà, riguarda appunto la sua infanzia, mentre il secondo, che esce ufficialmente oggi, riguarda più la sua adolescenza. Mentre ci sarà un terzo film di cui non ci sa ancora il titolo, ma di cui speriamo di entrare come coproduzione, riguarderà la sua età matura una volta che giunge in Francia. E questa sera sarà al Cinema Farnese, poi il 21 gennaio alle 22.30 sempre al Cinema Farnese, mentre il 22 alle 18.30 e 22.30. Benissimo. Diciamo che è un film parecchio importante che speriamo possa portare il dovuto successo alla Mescalito, che è una nuova casa di distribuzione. A questo proposito, ci parli un po' di questo progetto Mescalito? Sì, diciamo che Mescalito è nata come una casa di produzione, ha iniziato a co-distribuire alcuni film con una piccola, altra piccola casa di distribuzione, che è la Cineama, per poi gettarci nel mercato come è una distribuzione indipendente e che vuole imporsi nel mercato con film importanti. Appunto abbiamo preso Jodorowsky, abbiamo preso un altro film cinese che uscirà ad aprile, che si chiama 77 giorni, e poi siamo in trattativa per altri due film e speriamo di chiudere. Sono di due grossi registi, quindi speriamo che la fortuna ci aiuti. Tornando al film, Francesco, quali sono le caratteristiche che ti hanno conquistato della pellicola? Beh, diciamo che già c'era un nome abbastanza forte, sapevamo che poteva avere il suo riscontro, e poi perché è un film che tratta appunto i temi fondamentali del maestro, quindi c'è tutta la sua poetica intorno e soprattutto, come dire, è un capolavoro che non si può perdere, bisogna andare a vedere. Tra l'altro Jodorowsky ha una lunghissima carriera e molto diversificata. Sì, certo, assolutamente. E ci tenevo anche a dire che abbiamo cercato di portare il maestro e organizzare, diciamo, un piccolo tour in giro per l'Italia, ma non ci siamo riusciti, poiché appunto, come dicevo prima, è impegnato con i lavori. Comunque, riguardante la sua cinematografia, ce l'abbiamo studiata, l'abbiamo ammirata, tant'è che io mi ricordo che uno dei suoi primi film lo fecero vedere all'università, e quando ne parlai con Giorgio, che è l'altro ragazzo della distribuzione, e decidemmo appunto di prendere Poesia senza fine, che sapevamo era stato a Cannes, ma nessuna distribuzione se ne era accorta, quindi insomma, sì, speriamo, sì, che le cose funzionino. Sì, sì, sì. Francesco, in chiusura ci lasci tutti i riferimenti web per saperne di più? Certo, anzi inviterei gli ascoltatori a mettere un mi piace alla pagina di Mescalito Film, così possono essere continuamente aggiornati anche sulle future uscite, e ci sono tutte le nuove uscite quindi in sala e le proiezioni sulla pagina. Faremo un post a settimana in cui verranno indicati i cinema, i giorni di proiezione e gli orari di proiezione. Benissimo. Questa sera saremo a Roma, come detto prima, a Milano, a Grosseto, insomma cerchiamo di coprire un po' tutta l'Italia, cercando di fare 2-3 giorni di programmazione. Benissimo. Questo è. Francesco, io ti ringrazio, a risentirci presto e in bocca al lupo. Ciao. Grazie, ciao, ciao. Francesco Notarangelo di Mescalito Film sulla distribuzione del film Poesia senza fine di Alejandro Jodorowsky, in uscita in sala oggi giovedì 18 gennaio. Massimiliano Troiani, regista di due film, La voce dei deserti e Tra il Vangelo e il Voodoo, che andranno in programmazione all'Apollo 11 qui a Roma il prossimo 22 gennaio, ossia lunedì. Buongiorno. Buongiorno. Ciao. Ti conviene abbassare lo streaming, perché se no si sente un eco della mia voce. Ecco, ok. Abbassato lo streaming. Perfetto. Massimiliano, ecco. Allora, ce li presenti un po', ci parli un po' di cosa si parla? Certamente, beh, già visto che stavate parlando di Jodorowsky, per cui siamo già in un ambito abbastanza omogeneo, diciamo, no? Coerente di sciamanesimo, magia. Tutti i termini che purtroppo hanno preso una coloritura un po' fuorviante in Occidente da diverso tempo, e soprattutto vengono divise dei concetti che invece sono molto per certe culture africane, sudamericane, anche la nostra, che ormai ha perduto. Ecco, oggi quando noi diciamo magia intendiamo in genere cialtroneria, cose pericolose, magia nera, stregoni. Ecco, invece in alcuni ambiti culturali, ripeto, soprattutto l'Africa, alcune parti dell'Oriente, il Sud America, questi termini hanno ancora un valore invece molto forte, molto serio anche, e culturalmente molto valido. Sì. I due documentari dunque sono uno molto breve, un corto di 10 minuti, preso da un racconto di Rumi. Rumi, per chi non lo sapesse, è un grandissimo poeta sufi, persiano, oggi sarebbe afghano veramente, perché dove lui è nato è in Afghanistan, però ai tempi, parliamo del 1200, se non dico sciocchezze, era una città, lui era nato in Persia, ed è questo grandissimo poeta sufi, mistico, e questo racconto, appunto il racconto dei deserti, parla di un fiume che sta mai morendo e attraversa le sabbie dei deserti e non vuole accettare questa morte, perciò comincia a lamentarsi che lui non vuole morire, che lui è un fiume che ha attraversato grandi città, grandi imperi, e se non si può ritrovare adesso da stare in mezzo allo squallore delle sabbie e delle dune. E invece i propri deserti gli fanno un discorso molto filosofico, le sabbie gli rispondono dicendo: guarda che vai tranquillo, muori tranquillo verso il mare, perché ritornerai ancora ad essere nuvola, ad essere dunque pioggia, dunque acqua, e ritornerai ad essere di nuovo fiume, cioè ricordandogli che c'è sempre un grande ciclo della vita continuo in cui tutto si integra, e lui alla fine finisce appunto serenamente dentro il mare. Sì. Ci tengo a sottolineare che lo speaker di questo documentario era di Tony Bertorelli, un grandissimo attore che purtroppo ci ha lasciato recentemente, e le musiche sono di Stefan Mikus. L'ho montato molto per caso, è stato diciamo la nascita di questo documentario, perché nei miei vari viaggi di molti anni avevo appunto attraversato i fiumi, il Congo, il Nilo, il Sabarmati in India, poi ero stato in Sud America nelle dune di Barreirinha, avevo tutto questo materiale e volevo appunto assemblarlo in qualche modo. E fu per un caso che l'UNESCO mi propose di fare un documentario sulle sabbie, sulle acque, e io allora sì, accettai, però avevo così, per caso mi capitò di fare mai questo discorso, questo racconto di Rumi, che era perfetto, cioè sovrapposto alle immagini che io avevo raccolto, questo racconto era perfetto. Infatti ne è venuto fuori un'operina, diciamo, ecco, di 11 minuti, molto tranquilla, molto gradevole a vedere in questi bellissimi paesaggi di cui ti ho accennato. Sì. Vado avanti? Come no, parliamo dell'altro lavoro. Sì. Sì, l'altro invece è Tra il Vangelo e il Voodoo, è l'ultimo lavoro che ho fatto, ed è un lavoro un po' particolare, perché appunto nei miei vari viaggi di questi anni, soprattutto in Africa, ma anche in India, ripeto, Sud America, ma l'Africa in particolare in questo caso, ho sempre raccolto testimonianze di culture altre, come si usa dire, e di approcci alla conoscenza che non siano quelli che abbiamo noi e basta, se noi abbiamo, in Occidente abbiamo classificato che la razionalità è l'unico modo per approcciare la realtà e capirla, e figli di Cartesio abbiamo separato, diciamo, la mente e il corpo, e dunque tutta una serie anche di altre realtà le abbiamo separate. E viaggiando appunto in questi posti, una cosa che mi ha sempre affascinato sono questi riti e queste anche medicine alternative, queste cerimonie che alcune popolazioni sono riuscite a mantenere, malgrado il colonialismo, malgrado la violenza subita, malgrado l'economia, diciamo, di tipo capitalista che ha invaso ormai tutto il mondo, tutto il pianeta. Però alcune di queste culture sono riuscite ad accettare sia, diciamo, un tipo di economia che è quella del mercato, però anche una medicina di conseguenza che è quella occidentale, dunque fondata su certi principi, salvando però alcuni aspetti che sono quelli tradizionali, che sono molto forti e molto interessanti. Tutto questo si ricollega al discorso della religione. Sì. Questo l'ultimo documentario nasce perché andavo con i padri comboniani, missionari comboniani in Togo, in Benin, e mi sono trovato con dei missionari che da anni studiano questi fenomeni, queste culture, e sono stato portato, questo già mi era successo anche 3 anni fa, dentro un rito voodoo di quelli piuttosto forti, diciamo, insomma, ecco, non per turisti, e per cui ho assistito a delle avvenimenti che io, da buon occidentale, figlio di Socrate e Kant, mi fermo e dico: bene, sto vedendo una cosa che io non riesco a capire, mi fermo qua. Però con tutto il rispetto che queste persone stanno portando avanti una loro cultura, una loro vita che presuppone queste cose, ecco, questo è stato un po', diciamo, l'imbastitura di questo lavoro, girato in Ghana, Benin, Burkina Faso e Togo soprattutto. Sì. A questo punto, Massimiliano, la curiosità è rispetto alla tua attività di viaggiatore e documentarista, ce ne parli un po'? Innanzitutto sono un po' un figlio d'arte, diciamo, mio padre è stato un direttore della fotografia e documentarista, documentario della fotografia anche con So Wells, con Vittani, con Scotti, insomma, cioè, ho respirato un po' sempre sin dall'infanzia questa, il cinema e il documentario, però in realtà io ho fatto il teatro per molti anni, infatti con Jodorowsky mi accomuna essere stato un burattinaio come Jodorowsky ha fatto il burattinaio per molti anni. E anche io negli anni 70 ho fatto il burattinaio in giro per il mondo. E poi ho ripreso da un po' di tempo, appunto, dopo il teatro, la telecamera e la macchina fotografica, e mi sono trovato per fortuna con dei sentieri abbastanza così interessanti. In particolare, ecco, questo aver girato molto per le missioni dei comboniani mi ha aiutato, perché in certi posti, parlo del Congo, come posso parlare del Centrafrica, cioè questi posti dove se non c'hai un appoggio di queste persone non entri, non sai dove andare. Ecco, in Togo per esempio è stato molto interessante un incontro che c'è nel documentario con un padre comboniano che si è fatto eremita ed è il più grande conoscitore di voodoo, diciamo, bianco, per cui ha scritto 4 volumi per la casa editrice Harmattan, che è una casa editrice di antropologia francese, la più molto pregevole, molto importante, e lui ha scritto questo libro sul voodoo. Sono 30 anni che studia il voodoo e ha scritto questi 4 libri. Un altro ancora missionario che hanno accettato questo, cioè noi siamo venuti qua come missionari, però capiamo che la Chiesa ha sbagliato a considerare il voodoo e i riti africani come satanici, come stregoneria nera e cose varie. È stato sbagliato questo atteggiamento. E per cui mi ha molto affascinato, diciamo, vedere delle persone, dei religiosi che riconoscono un approccio superficiale, sbagliato, che la Chiesa ha avuto rispetto a queste culture, e invece sono entrati dentro allo studio, all'amore anche questa. Ed è interessante, per esempio, come uno di questi padri vi raccontava che lui stesso, partecipando a un rito voodoo, stava andando in trance anche lui. E sono stati gli stessi africani, cultori del voodoo, a dirgli: no, fermati, tu sei italiano, sei cristiano, sei cattolico, tu non devi entrare nella trance, ma devi restare così nella tua dimensione. Mi è sembrata una cosa molto bella di rispetto reciproco di questo fenomeno. Senti Massimiliano, allora ricordiamo il doppio appuntamento con La Voce dei Deserti e Tra il Vangelo e il Voodoo, che sarà all'Apollo 11 qui a Roma il lunedì 22 gennaio. Ci lasci anche i tuoi riferimenti web, se hai una pagina Facebook, un sito internet? Facebook sì, Massimiliano Troiani mi trovo facilmente. Non ho siti, non ho niente, che sono molto voodoo in questo, che non ho cronologia, ecco. Possiamo fare riferimento agli spiriti comuni che ci guardano. Però ecco, su Facebook Massimiliano Troiani si trova facilmente, insomma, e lì si può contattare. Benissimo. Se è qualcuno interessato ad approfondire di più l'argomento, ecco. Bene, bene. Allora, Massimiliano, un abbraccio, un in bocca al lupo e a risentirci. Ciao. Complimenti. Ciao, ciao. A presto. Massimiliano Troiani, regista dei film La Voce dei Deserti e Tra il Vangelo e il Voodoo, il prossimo lunedì 22 gennaio qui a Roma all'Apollo 11. Giulia Esposito di Lab 80 per parlare della distribuzione del film Marlina, omicida in quattro atti, in uscita in sala oggi giovedì 18 gennaio, film al quale abbiamo dedicato la copertina della puntata di questa settimana con una foto di scena molto suggestiva. Giulia, benvenuta. Grazie, grazie, buongiorno a tutti. Allora, lo raccontiamo in breve il film? Sì, volentieri. Allora, questo film è stato presentato alla Ken Zen a Cannes e ha suscitato subito il nostro interesse. Una storia molto insolita in un'ambientazione che per diciamo il pubblico italiano è altrettanto insolita. Marlina, la protagonista, è una donna indonesiana, in particolare di un'isola dell'Indonesia che si chiama Sumba, e si trova vedova, molto giovane, è nella sua casa con il corpo del marito, a cui deve dare una sepoltura secondo i riti tradizionali, quando si ritrova alla porta sette uomini intenti a derubare di tutto, dei suoi soldi, del bestiame, e di stuprarla. Viene anche costretta a preparare loro una cena, ed è qui che la nostra protagonista comincia a meditare la sua vendetta, e da qui comincia il percorso appunto di rivalsa di questa donna che reagisce a questo mondo di violenza, a sua volta difendendosi con le stesse armi. Quindi la storia di un'eroina solitaria, soprattutto una storia del tutto al femminile, che sia visivamente che per le tematiche richiama molto il genere western. Sì. Tant'è che subito appunto dopo Cannes è stato nominato questo film da Variety un satay western. Il satay è questo piatto tipico che si vede anche nel film, è un po' come la spaghetti western italiana, questo è una variazione sul genere, ecco. Sì, sì. Senti, a livello personale, quali sono gli elementi del film che ti hanno più impressionato e convinto? Allora, partirei dalla fotografia, sì, che è veramente affascinante, sia perché abbiamo questi panorami dell'Indonesia rurale, un'isola che anche rispetto al resto dell'Indonesia è molto arida, quindi un paesaggio che richiama tantissimo sia il genere western, ma che è anche molto molto ruvido, molto un ambiente un po' ostile appunto da guardare, e in queste inquadrature si staglia la figura dell'eroina Marlina, che oltretutto è un'attrice bravissima, Marcia Timothy, che anche per le caratteristiche, oltre alla sua bravura come attrice, ha una particolare bellezza che dà molto al film. L'altro elemento nota è senz'altro la colonna sonora, che è stata composta per il film e che riprende le colonne sonore dei film western, quindi già quella dà immediatamente una suggestione che ricorda moltissimo i film di Sergio Leone. Sì. Questi sono due elementi che immediatamente affascinano, la cosa che poi rimane secondo me ancora più impressa è proprio questo aspetto anche di nonostante sia un film molto pop, molto anche in alcuni aspetti pulp, che ricalca un po' persino un film di Quentin Tarantino, la nostra eroina potrebbe essere associata un po' anche a quella di Kill Bill, è un film che comunque denuncia una situazione di maschilismo e di concezione arretrata nei confronti della donna, che la stessa regista Muli Suria, una giovane regista molto promettente indonesiana, ci ha raccontato appunto di aver visto questo tipo di realtà in alcune parti dell'Indonesia, in particolare a Sumba, che non riflette appunto la condizione della donna nel resto dell'Indonesia, ma che lì è ancora molto forte, e lei si è ispirata infatti proprio ad alcune persone, ad alcune donne che ha conosciuto sull'isola per tratteggiare questa protagonista. Sì. Non soltanto la protagonista, ma in realtà all'interno di nel corso della storia anche gli altri personaggi femminili che troveremo sono fondamentali, e ognuno a modo suo è una figura che si oppone in qualche modo alle ingiustizie, all'indifferenza del resto della società. Giulia, ci parli... Questo è un aspetto importantissimo, sì, del film. Sì. Ci parli anche a questo punto delle dinamiche distributive che state attuando per l'uscita? Certo, allora, innanzitutto segnalo che il film sarà questa sera, a partire da questa sera, all'Apollo 11. Quindi appunto invito tutti a vederlo. Il film esce proprio oggi. Siamo molto felici, molto, molto contenti, perché oltre ad aver avuto un'ottima accoglienza critica dopo Cannes, il film ha avuto anche un'anteprima italiana a Milano al Noirin Festival, dove ha preso anche un premio, ha ricevuto un premio speciale, e niente, lo distribuiamo a partire da oggi in tutte le sale italiane. Il film poi, per come lavoriamo noi di Labottanta, una casa comunque piccola, indipendente, i film non hanno una vita abbastanza lunga nel cinema, cioè noi crediamo che un buon film possa essere valido, possa avere una vita anche di un anno o due anni per l'uscita in sala, quindi non abbiamo un periodo breve di uscita in sala, ecco. Bene. Allora Giulia, ci salutiamo lasciando tutti i riferimenti internet per saperne di più. Sì, vi invito a visitare il sito, che è www.labottanta.it/distribuzione, e anche la nostra pagina Facebook Labottanta Film, dove si possono anche trovare gli elenchi aggiornati delle sale in cui poter vedere il film. Giulia, un abbraccio, un in bocca al lupo e a risentirci. Grazie. Ciao, ciao, ciao. Grazie. Ciao. Già Giulia Esposito di Labottanta per la distribuzione del film Marlina Omicida in 4 atti, in uscita in sala oggi 18 gennaio. Ritroviamo Matteo Pavesi per parlare con lui del film Little Harbor, che è in programmazione al Cinema Spazio Oberdan di Milano a partire dal 12 gennaio scorso fino al 24. Matteo, intanto ben ritrovato a Visionari su Radio Onda Rossa. Grazie di avermi invitato per dire due parole su questo film, che è innanzitutto l'orso di cristallo, è una sezione particolare ma è una sezione molto preziosa del Festival di Berlino ed è un premio molto prestigioso che questo film ha ricevuto l'anno scorso appunto durante il festival. Ed è un film, come dire, che la distribuzione italiana non ha diciamo intercettato. A noi è piaciuto molto e lo abbiamo così portato a Milano, allo Spazio Opera. Sì, sì, infatti si tratta di un'esclusiva per l'Italia, se non sbaglio. Sì. È un film di grande pregio perché affronta innanzitutto una storia vera dei nostri giorni che coinvolge due giovani ragazzi, una ragazza e un ragazzino, insomma, in una vicenda pazzesca, paradossale. Però al di là dell'aspetto davvero coinvolgente della vicenda, che magari insomma lasciamo agli spettatori scoprire, è il linguaggio cinematografico che utilizza, che è questo film, che è davvero molto molto interessante, molto moderno, asciutto, forte, e come raramente si vede nelle nostre sale. Senti, quali sono, ecco, gli elementi del film che più ti hanno convinto, che più ti sono piaciuti? Ma innanzitutto l'interpretazione dei due ragazzi, che sono due ragazzi probabilmente alla loro prima prova. Sì. E diciamo che il tratto, perché pur essendo una vicenda drammatica, comunque è trattata con un certo senso di humor, e diciamo che i due personaggi possono in qualche modo ricordare in alcune movenze, in alcune situazioni, diciamo, i ragazzi di Wes Anderson, diciamo così. Sì, i ragazzini di Wes Anderson, quindi questa cosa in chiave, diciamo, bosniaca, insomma, in chiave un po' dell'est. Questo è un aspetto, come dire, molto gradevole del film. E poi appunto la loro, al di là appunto delle pose, delle ironie, la vicenda, il modo in cui viene raccontata la vicenda da un punto di vista proprio di grammatica cinematografica, per cui non ogni inquadratura, come dire, giusta, senso, ritmo, e poi c'è grande essenzialità, nel senso che una parte del film è, come dire, c'è un uso molto, molto limitato di musiche, si gioca più sugli sguardi, dialoghi, e poi a mano che cresce appunto la storia, si aggiunge calore, si aggiunge musica, fino a diventare, come dire, un ritratto poetico di una storia di tutti i giorni, quotidiana. Però insomma non è poi facile convincere il pubblico a venire a vedere film che hanno un valore così, che non hanno magari tematiche, come dire, spirituali o ambientali o politiche, ma sono semplicemente dei bei film fatti bene, scritti bene. Sì, ecco, questa sì. È la nostra scommessa. Sì. Senti, rispetto alla regista, cosa sappiamo? È una prima opera, un'opera, okay. Insomma, un primo lungometraggio. Non abbiamo avuto modo di invitarla in questa tenitura allo Spazio Oberdan, per cui abbiamo avuto tecnicamente un po' più rapporti con la produzione, ecco, non abbiamo avuto modo di approfondire questo. Insomma, a volte capita che ci siano, sì, magari, sì, per impegni, insomma, difficoltà a metterci in contatto direttamente con la regista. Senti, come sta rispondendo Milano a questa tenitura? Diciamo che ha risposto inizialmente bene, adesso un po' in modo un po' più tiepido. Mi auguro che, come dire, le ultime proiezioni siano un po' più frequentate. Non è facile, e poi comunque proporre questi film, non abbiamo una cassa di risonanza pubblicitaria come le prime visioni tradizionali. Oggi al cinema, diciamo, di prima visione ci sono anche degli ottimi film, quindi anche delle alternative, per cui insomma è una battaglia dura, ma noi combattiamo, insomma. Senti, allora in chiusura ci lasci i riferimenti internet per saperne di più? Sì, se voi guardate su Cineteca Milano la programmazione di Spazio Oberdan, dove c'è insomma scritto programmazione, andate su Spazio Oberdan, scegliete appunto Little Harbor e avete il calendario delle prossime proiezioni. È come dire, un ottimo film, un'ottima occasione per vedere del buon cinema. Bene. Se avete voglia e tempo, la Cineteca c'è. Matteo, un abbraccio e alla prossima. Grazie. Ciao. Ciao, ciao, ciao, ciao, grazie. Matteo Pavesi del Cinema Spazio Oberdan di Milano sulla programmazione del film Little Harbor, in programmazione fino al 24 gennaio. Questa è Visionari su Radio Onda Rossa, ultima puntata di Visionari, ma ne parleremo, come anticipavo prima, nella parte conclusiva della trasmissione. Comunque in diretta sugli 87.9 modulazione di frequenza, in streaming dal sito internet della radio ondarossa.info, sull'home page c'è Ascolta la diretta, e sempre sull'home page, colonna centrale, alla voce trasmissioni Visionari, trovate tutte le informazioni sulla puntata di oggi e sulla trasmissione, e come anche sulla pagina Facebook di Visionari Radio Onda Rossa. L'indirizzo di posta elettronica è visionari@ondarossa.info. Elisa Palagi di I Wonder Pictures per parlare della distribuzione del documentario My Generation di David Batti, in uscita in sala il prossimo lunedì 22 gennaio. Elisa, ben ritrovata. Grazie, ciao a tutti. Ciao. Allora, intanto raccontiamo un po' la storia di questo My Generation. Qual è la trama? Qual è la storia che racconta? Allora, My Generation, che come hai detto arriva al cinema e ci rimane dal 22 al 29 gennaio, è tutto incentrato sulla figura del grandissimo Michael Caine. Lo troviamo signore ancora affascinante, ma insomma di una certa età, che guida la macchina Piccadilly Circus, e d'improvviso i filmati si susseguono veloci anche dal passato, e sembra quasi che facciamo un viaggio nel tempo, e arriviamo dritti dritti nella Londra degli anni 60, nella Swinging London, quando appunto la capitale del Regno Unito era davvero l'ombelico del mondo, e la cultura pop esplodeva, l'ottimismo invadeva tutta quanta la società, e finalmente si affermava il rifiuto dell'austerità. Diciamo, i giovani volevano veramente rompere con il passato e vivere la propria gioventù ed essere liberi e affermare appunto la propria generazione, da cui il titolo My Generation. Chiaramente c'è anche la canzone degli U, e la colonna sonora è fatta dagli U e Beatles, dai Rolling Stones, e poi troviamo addirittura anche le voci di Paul McCartney, di John Lennon, di Mick Jagger, di Keith Richards. Michael Caine ripercorre proprio tutti i suoi amici dell'epoca, e le conversazioni di allora vengono messe a fianco alle conversazioni di oggi, tanto che davvero abbiamo l'impressione di essere là, di essere a Londra negli anni 60. Senti, un periodo di particolare fervore a partire dalla musica, ma con una grossa produzione artistica a livello più generale. Certo, sì, nel film, oltre ai musicisti che ho già ricordato, forse ho dimenticato Marianne Faithfull, grande cantante, attrice, musa dei Rolling Stones, ma non solo. Troviamo il fotografo David Bailey, i cui scatti sono stati proprio il simbolo di una generazione, il simbolo della rivoluzione sessuale, e da lì il film attinge tantissime immagini. Un'altra figura importante è quella di Twiggy, grande icona con le sue minigonne, e anche la stessa Mary Quant, creatrice della minigonna. entra nel film e troviamo le botteghe dell'epoca, i tagli di capelli, proprio gli abiti, il taglio di vestiti che è completamente diverso e fa trasparire quella leggerezza, quella voglia di restare giovani che finalmente poteva affermarsi, perché appunto la minigonna poi dopo magari ha preso anche degli altri significati più ammiccanti, ma quando è nata era proprio la voglia di togliersi di dosso tutti quegli ingombri di pesantezza di vestiti che facevano riferimento alla generazione precedente. Si voleva sentirsi leggeri, piccoli, spensierati e abbandonare un po' tutta quell'austerità della generazione precedente che aveva appunto vissuto la guerra. Michael Caine, questo davvero ce lo racconta benissimo, ci racconta anche come la sua personale carriera è un simbolo di come finalmente la generazione, la sua generazione poteva, nonostante venisse da una classe operaia, arrivare anche all'arte, al mondo dell'arte, nel suo caso a recitare come attore. Lui dice che anni prima questo non sarebbe stato possibile. Grazie appunto a questo nuovo fervore, uno arrivava da una classe sociale bassa, appunto suo padre era un venditore di pesce, è riuscito essere scritturato per un primo ruolo e poi ancora per un altro, fino a che poi appunto ha potuto fare la carriera che ha fatto. E lo troviamo ancora in formissima in questo documentario. Senti, che impressione ti ha fatto proprio la sua figura in questo lavoro? Allora, noi lo abbiamo incontrato a Venezia, è venuto al Festival di Venezia a presentare il film, e il film è lui è davvero una guida e un'esca che proprio ci attira con tutto il suo fascino in quel mondo. Devo dire che è stato elegantissimo, disponibilissimo, molto è stato un sogno conoscerlo, e poi al di sopra delle aspettative che già erano molto alte per un grandissimo come Michael Caine. Senti, rispetto allo sguardo di David Batty, che ci dici? Dunque, ci ha lavorato tanto, hanno lavorato 6 anni per mettere insieme tutti questi pezzi, spezzoni, musiche, interviste, fotografie, immagini. È un lavoro chiaramente di squadra. David Batty è stato bravissimo nell'instaurare questo rapporto con Michael Caine. L'idea del film nasce da David Batty, ma anche da Michael Caine, quindi è stato proprio un lavoro di concerto. Sicuramente c'è lo zampino del produttore Simon Kuller, che viene dal mondo della discografia e che quindi è riuscito a portare questo bagaglio incredibile di musiche fantastiche che troviamo nel film. Senti, come avete organizzato questa settimana di uscita in sala? Dunque, il film esce in tutta Italia in 55 sale, fa parte della collana delle Wonder Stories che conoscete, insomma, che il suo programma segue sempre. Sono film che si dirigono a dei pubblici specifici che amano la musica, che amano l'arte, che amano la danza e che quindi vivono il momento del cinema proprio come un evento. Le sale che posso ricordarti sono le sale di Roma, per i suoi ascoltatori appunto della capitale, sono il cinema Roxy Parioli, il Multisala Lux, Urcino e il cinema Barberini. E poi se vuoi ne ricordiamo altri, per esempio a Milano siamo al Colosseo, siamo all'Anteo, siamo al City Life, siamo a Genova al cinema Corallo, siamo a Torino al cinema Romano e al cinema Eliseo, siamo a Bologna al cinema Europa e al nostro cinema pop-up Medica Palace di Via Montegrappa. Siamo anche alla Spezia, al cinema Il Nuovo, io da Spezzina mi piace sempre ricordarlo. E a questo punto per un quadro complessivo ci puoi dare tutti i riferimenti internet? Certo, allora innanzitutto vi consiglio sempre di seguire la nostra pagina Facebook di I Wonder Pictures, dove ci sono tutti gli aggiornamenti, le foto, i video e i contenuti speciali. Poi abbiamo anche un sito che è www.iwonderpictures.it e in questo caso dopo questo indirizzo potete mettere / my generation e quindi accedere a tutte le informazioni su questo film in particolare. Benissimo. Allora Elisa, un abbraccio e in bocca al lupo. Un abbraccio a te Federico, grazie tante. Ciao, a presto. Saluto a tutti gli ascoltatori. Ciao. Ciao ciao. Elisa Palagi di I Wonder Pictures per parlare della distribuzione del documentario My Generation di David Batty, in uscita in sala il prossimo lunedì 22 gennaio per una settimana. Beniamino Placido di Notorious Pictures per parlare con lui della distribuzione del film Un sacchetto di biglie di Christian Dugay in uscita in sala il oggi 18 gennaio. Beniamino, intanto ben ritrovato su queste frequenze. Grazie, grazie, grazie dell'invito, partecipo sempre con piacere, grazie. Allora, a tutti gli ascoltatori. Per chi ci ascolta, allora, raccontiamo un po' questa storia. Sì, guarda, il film, come sai, è un'incredibile storia vera sull'Olocausto, tratta dall'acclamato bestseller internazionale di Joseph Joffo, che ha già emozionato milioni di persone. Il film parla, come nel libro, è la storia di questi due piccoli fratelli ebrei che nella Francia occupata dai nazisti vengono separati dai propri genitori. Sono quindi costretti a rifugiarsi per la propria salvezza nel sud della Francia e naturalmente faranno di tutto per provare a ricongiungersi all'amata famiglia. Chiaramente, ecco, la cosa che ci ha colpito e il motivo per cui abbiamo deciso di distribuire questo film è proprio che è un film diverso rispetto ai soliti film che siamo abituati a vedere su questa tematica così purtroppo drammatica come quella dell'Olocausto, perché in questo caso diciamo che viene tutto visto dal punto di vista dei bambini. E quindi è una storia emozionante perché parla proprio di come un legame familiare così forte, così importante, veramente ci porta a riuscire a fare e a prendere iniziative veramente difficili, che quindi, cioè, lo scopo di questi bambini, cioè l'Olocausto, era un qualcosa di drammatico ma era un contorno. La vera storia è il dramma che vivono questi bambini, che ripeto, una storia vera, che sono stati separati in maniera brutale dai propri genitori. Lo stesso titolo, Un sacchetto di biglie, infatti si riferisce proprio al fatto che le biglie rappresentano proprio per antonomasia il simbolo del gioco dei bambini. In questo caso sono proprio il simbolo di un'infanzia che è stata brutalmente interrotta da quelle che sono state dell'atrocità delle leggi razziali naziste quando, che furono emanate, ecco. Quindi tutto ciò cambia completamente la vita di questa famiglia di parrucchieri, i bambini sono costretti a scappare, quindi è un film veramente, ripeto, che tratta il tema dell'Olocausto, ma l'emozione è la protagonista di questo racconto. Oh, Beniamino, dove l'avete incontrato il film e quali sono le caratteristiche che ti hanno più convinto? Ti ripeto, il film l'abbiamo comprato, è un film di produzione chiaramente francese, sì. E noi l'abbiamo comprato durante uno dei festival dove andiamo solitamente, quindi al Marché di Cannes. Ci siamo subito innamorati dalle prime scene che abbiamo visto del film, che ripeto, ci ha colpito il punto di vista dei bambini, sì, sì. La carica emozionale che ha questo film, e speriamo, ecco, che e i valori che sono i lavori, sia storico educativi, perché ripeto, cioè, comunque viene ripercorso un momento drammatico, le tappe come quella della Seconda Guerra Mondiale in tutte le sue tappe fondamentali, e il punto di vista è quello dei bambini che raccontano quindi la Shoah attraverso i loro occhi, e questo era un argomento che per noi è stato molto importante. Sì, sì, ci è sì, piaciuto sì. Molto anche il legame che si instaura tra questi due fratelli, quindi la forza dell'amore fraterno che spinge i protagonisti a provare con tutte le proprie forze a resistere a questi orrori che sono stati generati, ripeto, ahimè, dalle leggi razziali. E ci ha colpito perché, ripeto, lo affronta non con una certa, diciamo, non con leggerezza, perché comunque si tratta di un tema, come abbiamo detto, molto drammatico, però anche il fatto della scelta, ed è stato proprio l'autore del libro, di Joseph Joffo, di affidare la regia a Christian Dugay, che è già stato il regista di Belle et Sébastien, che noi quindi abbiamo distribuito con successo negli anni passati e che a breve distribuiremo anche il terzo e conclusivo capitolo. E conoscevamo direttamente quindi il regista, ci fidavamo del suo lavoro, siamo stati sicuri che avrebbe trattato il film, diciamo, toccando quelle corde giuste per poterlo far diventare un film adatto, sì, a un pubblico, diciamo, familiare e anche di studenti. Siamo, sì, veramente, guarda, il film ci è piaciuto molto, siamo contenti della scelta, siamo orgogliosi di poterlo distribuire da oggi in sala con 140 copie circa, ma la cosa che veramente ci ha toccato profondamente e ne siamo orgogliosi è che ad oggi, nella prossima settimana, quando verrà celebrata la giornata della memoria, siamo riusciti con le scuole, senza forzare, anzi ce l'hanno chiesto le scuole, ad organizzare ad oggi già 163 proiezioni, quindi mm-hmm. questo è veramente un motivo di vanto ed è un momento in cui un film veramente si dice che possa fare cultura, perché è veramente sta diventando un evento didattico. Siamo molto contenti di questo. Ci dà più gioia questo, quasi che, insomma, siamo contenti della scelta e ripeto, speriamo, certo, che piaccia al pubblico e che lo emozioni come ha emozionato tutti noi. Senti Beniamino, per quello che ne puoi sapere, com'è stata la risposta all'estero? Guarda, in Francia, in realtà è un film francese, quindi chiaramente il mercato principale era quello. Il film è andato bene, è andato un po' meno bene di quanto si aspettassero in Francia, ma perché avevano delle ambizioni veramente elevate. Sì. Però il film comunque ha coinvolto, mi sembra che abbia fatto 1,5 milioni di presenze, che comunque per la Francia è un risultato sicuramente buono, ecco. Sì. Noi chiaramente certamente non possiamo arrivare a questi numeri, però già il fatto di essere riusciti a portarlo in sala e soprattutto, ribadisco, nelle scuole, un film del genere per noi è veramente un motivo di vanto. Speriamo, sì, anzi, in futuro di avere altri film che oltre ad essere girati bene, recitati bene, possano anche contribuire a insegnare qualcosa a tutti noi. Siamo alla ricerca sempre più di progetti che raccontino storie importanti e di emozione. Beniamino, in chiusura ci lasci tutti i riferimenti web per saperne di più? Sì, guarda, allora noi abbiamo fatto la pagina Facebook dove abbiamo caricato tutti i materiali, che è chiaramente la pagina Il Sacchetto di Biglie. Poi altri materiali li potete trovare sul nostro sito ufficiale, quindi www.notoriouspictures.it, e poi chiaramente su YouTube, sul canale dedicato di Notorious, abbiamo tutto il trailer, tutte le clip, gli spot per poter approfondire, per chi fosse interessato, questo bellissimo film. Ecco. Benissimo. Allora, un abbraccio e in bocca al lupo. Io vi ringrazio ancora per l'opportunità che ci avete dato, perché è importante che anche una radio come la vostra si occupi di film di questo spessore. Grazie ancora, siete stati veramente gentili. Ciao Beniamino, alla prossima. Ciao. Ciao a tutti gli ascoltatori, grazie. Ciao. Beniamino Placido di Notorious Pictures sulla distribuzione del film Un Sacchetto di Biglie di Christian Dugay, in uscita in sala oggi giovedì 18 gennaio. Andrea Paco Mariani, regista del film The Harvest, Il Raccolto, che sarà presentato, l'anteprima ufficiale è alla Cineteca di Bologna il prossimo 19 gennaio, cioè domani venerdì, e poi dagli inizi di febbraio sarà in tour in tutta Italia. Paco, ben ritrovato. Buongiorno a tutti e a tutti. Ciao, è il nostro primo collegamento con il nuovo anno. esatto, sembra ieri che ci sentivamo, ma era l'anno scorso, quindi è già passato un anno. Senti Paco, è un lavoro, un tuo lavoro che abbiamo seguito in tutte le fasi, dal progetto alla realizzazione, e ripercorriamo anche un po' questo percorso. Sì, il film abbiamo avuto occasione di parlarne spesso in questi praticamente quasi 3 anni, proprio perché rispecchia i modelli di percorso che noi seguiamo. Durante questi 3 anni, quindi, oltre ad aver fatto tutto quello che si deve fare per, insomma, andare a costruire un film come questo, quindi dalla sceneggiatura, il set, la scrittura, il montaggio, eccetera, ha seguito parallelamente tutto un percorso di campagna di coproduzione popolare, che è il nostro modello di produzione ormai da diversi anni, e quindi abbiamo avuto diverse occasioni di mostrare anche sia sul web ma anche in eventi pubblici quello che erano i passi evolutivi del progetto fin dalla sua nascita fondamentalmente. E è un modello in cui noi ci siamo sempre trovati molto bene, quello di condividere il progetto già in queste prime fasi, ed è un modello che ci permette, ci ha permesso negli anni e anche questa volta di trovare di nuovo un significato concreto alla parola indipendente, nel senso che appunto la coproduzione popolare significa anche una raccolta di donazioni e sostegno economico da parte delle persone che piano piano vanno a costruire la comunità digitale attorno a un'opera di questo tipo. Allora, quella del film è una storia che forse non tutti conoscono, ma rappresenta una realtà molto consolidata e di una certa entità. Sì. Rispetto a quello che abbiamo insomma affrontato nel film, i temi sono tanti, si intrecciano, si passa da, chiaramente il tema principale è lo sfruttamento della manodopera e delle persone nel settore agricolo in Italia, ma chiaramente si intreccia con tantissime altre questioni, tutte di assoluta rilevanza nel dibattito odierno, la questione delle migrazioni globali, le seconde generazioni e tutte le polemiche anche di questi mesi sullo Ius Soli e tutta una serie di argomenti di questo tipo, ma dall'altro anche senza dimenticarci che sono ormai 5-10 anni che ci raccontano che l'Italia è il paese del sole e del buon cibo, e penso sia arrivato il momento di chiedersi anche questo buon cibo come viene prodotto, non solamente in termini di ciò che viene mangiato dalle persone, che è sicuramente una cosa molto importante da aprire come dibattito, ma anche sulla pelle di chi e in che modo viene prodotta questa eccellenza. Senti, come la forma, io poi ho avuto modo chiaramente di vederlo, la forma che hai scelto di narrazione è articolata e insolita. Sì, abbiamo scelto è un progetto che da questo punto di vista è stato molto particolare fin dalla sua genesi, fin dall'inizio, nel senso che il film in maniera a volte volutamente equilibrata, a volte volutamente strappata, è un continuo intreccio di almeno tre stili narrativi. C'è la componente del documentario nel senso classico del termine, che è il mondo a cui noi veniamo, quindi anche un livello di testimonianze, informazioni raccolte e che vanno ad analizzare il tema che trattiamo, ma questo è stato intrecciato un altro doppio livello, uno che va nella direzione di quello che può essere chiamato oggi il cinema del reale, nel quale il documentarismo sono anni che soprattutto quello indipendente crea dei progetti molto interessanti, quindi raccontare un problema e una storia attraverso la quotidianità delle persone, quasi senza nemmeno più l'intervista frontale in senso classico. E però soprattutto c'è una terza componente che abbiamo definito per comodità la componente del musical, poi per chi vedrà il film probabilmente si renderà conto che la parola musical non è nemmeno la più adatta, diciamo che attraverso altri strumenti narrativi, in questo caso la potenza del ballo, della musica, delle sonorità e dei testi di questo pezzo di opera dentro un documentario, ci permettono comunque di continuare il racconto e l'analisi dei temi trattati. Marco, per dare un'idea della realtà di cui si sta parlando, nell'agro pontino la presenza dei migranti, ma anche delle seconde generazioni, ha dei numeri importanti. Sì, assolutamente sì. Noi, come spesso accade nel documentarismo sociale, ci siamo concentrati su una storia ben precisa e su una comunità ben precisa, quindi noi nel film raccontiamo attraverso la vita di alcune persone che sono diventati protagonisti, la storia è tutta girata appunto nell'agropontino, e oggi perlomeno queste forme di sfruttamento brutale colpiscono principalmente la comunità sikh. I numeri, come dicevi, nel bene e nel male sono molto importanti, in primis perché la comunità sikh è una comunità, a differenza magari di altre, molto più stanziale, quindi parliamo di nel suo lavoro continuo una comunità sparsa nei vari territori, piccoli paesi eccetera, che ha raggiunto quasi le 40.000 persone. Più in generale tutto questo fenomeno di sfruttamento che conosciamo ahimè magari per come si dice, picchi di cronaca come i fatti di Rosarno e quant'altro, si sta dimostrando un sistema assolutamente consolidato che sempre più spesso è in grado di fare sistema senza nemmeno come si dice, evadere la legge, ma raggirando in qualche maniera tutti i coni d'ombra che le leggi sul lavoro e sulle immigrazioni oggi hanno generato. Questo chiaramente dà un segnale ancora più preoccupante, perché vuol dire che il modello si sta stabilizzando, in qualche maniera si sta normalizzando, ma è un modello che prevede la totale brutalizzazione delle persone in quel processo che ahimè conosciamo tutti. E la cosa importante secondo me è proprio questo meccanismo di immedesimazione con questa storia anche rispetto alla nostra quotidianità, quel processo di precarizzazione non solo della tua giornata lavorativa, ma della tua vita, della tua quotidianità, perché ovviamente noi nel film parliamo anche del fenomeno del doping tra i lavoratori che assumono alcuni tipi di sostanze per riuscire a lavorare di più. Un'analisi minimamente intelligente e critica dovrebbe chiedersi, come abbiamo fatto noi, perché succede questo. Succede questo perché le persone sono portate a utilizzare queste sostanze perché se non lavorano 12-14 ore al giorno non portano a casa un salario sufficientemente adeguato. E questo nel mio paese si chiama neoliberismo, nel senso sono 15 anni che ci chiediamo giustamente cosa avrebbe comportato e cosa comporterà e cosa sta comportando l'idea che è tornata in auge del fatto che il mercato si autoregolamenta, ma mi pare evidente che l'unica cosa che fa il mercato è proprio dove c'è deregolamentazione va a creare sacche molto preoccupanti di questo tipo. Una dinamica contemplata anche nel tuo film è quella che vede l'associazionismo e la politica di base e tessere relazioni e tentare di creare anche poi dei momenti vertenziali rispetto alle questioni dei diritti. Noi abbiamo anche avuto molta fortuna durante le riprese perché ovviamente avevamo programmato tutti i vari set di ripresa. Sono stati girati tutti nella primavera estate 2016, tutti i set. Chiaramente alcune cose erano programmabili, mettiamola così, altre un po' meno. Tra quelle in cui abbiamo avuto la fortuna, tra virgolette, di essere presenti quasi per caso, c'è questa assemblea sindacale autoconvocata dove più di 2000 braccianti indiani e sikh si sono ritrovati dentro un tempio sikh a Sabah, vicino Sabaudia, provare a iniziare ad affrontare insieme il problema e unire le forze. Chiaramente è stato un momento molto importante, oltre perché dal nostro occhio più diciamo europeo era comunque particolare vedere un'assemblea di quel tipo dentro un tempio. Però a parte questo aspetto qui, la cosa importante è che è stato poi il momento che ha aperto una fase nuova dove con varie forme, ognuno con i propri strumenti, si sta cercando di provare a rispondere a tutto questo. Io rimango assolutamente convinto dell'idea da cui siamo partiti 3 anni fa col film. Tutto questo non significa semplicemente solidarizzare con delle persone che in questo momento, anche per una legge come la Bossi-Fini per esempio, sono molto più ricattabili sul mondo del lavoro di quanto poteva essere prima, ma sforzarci di capire che sebbene con sfumature molto diverse ovviamente questi livelli di ricattabilità li viviamo tutti quanti ogni mattina, proprio perché la fase in cui stiamo vivendo è una fase che da questo punto di vista ha generato molti problemi, ripeto, che vanno ben oltre la precarietà lavorativa, ed è secondo me importante che il cinema, in questo caso perché è il nostro strumento, aiuti comunque le persone e le comunità a chiedersi come scavalcare questi muri che a volte neanche percepiamo, perché ovviamente in buona fede non lo percepiamo immediatamente, però è molto importante provare a tirare dei fili concreti tra tutte queste storie che riguardano da un lato comunità migranti come appunto quella SIC che noi abbiamo raccontato, ma storie che riguardano in realtà la quotidianità di gran parte di noi e di tutto ciò che stiamo vivendo in questo momento un po' complesso, diciamo. Sì. Senti Paco, ci parli un po' dell'appuntamento, quest'anteprima nazionale alla Cineteca di Bologna, e poi di come avete pensato questo tour in giro per l'Italia, oltre poi a darci chiaramente tutti i riferimenti web per saperne di più. Certo. Adesso noi, appunto, dopo l'anteprima che abbiamo fatto a Brescia a Natale, che è stata molto bella e importante anche perché ha visto la partecipazione di diverse componenti del cast, domani venerdì 19 gennaio ci sarà la prima nazionale ufficiale a Bologna, con una doppia proiezione alla Cineteca di Bologna, che è già andata completamente sold out, per la quale siamo ovviamente molto contenti, e infatti abbiamo già aggiunto altre due date martedì 23 gennaio in un altro cinema qui di Bologna che si chiama Cinema Galliera, dal quale siamo molto contenti di partecipare anche da loro, e dopodiché da quel giorno si aprirà ufficialmente il tour, che presto annunceremo anche attraverso il sito www.vearves.it, e che appunto inizierà il suo speriamo lungo giro, speriamo lungo ovviamente perché ci fa piacere, perché è chiaro che fare un film poi è importante anche fare in modo che le persone lo vedano, ma in questo caso fare in modo che più persone possibili vedano questo film significa più persone possibile entrino in contatto con questa storia e provino ad avviare un percorso di ragionamento di cui parlavo prima. Senti, immagino che le proiezioni prevedano anche la presenza di voi che ci avete lavorato. Sì, certamente, soprattutto appunto nelle città più grandi, verremo anche giù a Roma molto presto, ci sarà anche appunto la nostra presenza in sala, oltre anche di altri ospiti e altre componenti del cast del film, e molto probabilmente sarà un tour, e questa secondo me è una cosa molto importante, che vedrà anche la partecipazione delle comunità e delle associazioni Sikh in Italia. All'anteprima che c'è stata a Natale a Brescia, una delegazione è venuta apposta a vedere il film e a incontrarci, e io penso che questo passaggio sia importante, non solamente ovviamente per noi, perché è un obiettivo molto bello da raggiungere, ma proprio sempre in virtù di quel tirare dei fili tra tutte queste storie, l'idea che nei prossimi mesi di tour non siano solo in un determinato tipo di spazi come le sale, gli spazi sociali e quant'altro, ma attraversi anche le comunità sikhe che vivono in questo paese, è chiaramente una cosa molto forte che vale più di qualsiasi premio, ecco. Allora Paco, questo per quanto riguarda The Harvest, e poi, come ti avevo anticipato l'altro giorno quando ci siamo sentiti, sono contento che tu sia presente oggi qui, perché come poi ho anche detto durante la trasmissione, si tratta dell'ultima puntata di Visionari, e allora, visto anche che tu sei una presenza abbastanza costante di questa trasmissione, vista anche che io sento, percepisco una vicinanza di pensiero e di agire rispetto a quello che fai, al tuo percorso, mi piaceva, ecco, comunicare con te questa cosa anche in forma magari discorsiva, evitando un monologo che rischia di diventare un po' pesante per me e per chi ascolta. Sicuramente, scusa se interrompo, capisco cosa intendi, però forse un po' purtroppo anche ti toccherà, perché certo, la trasmissione è una trasmissione non solo molto importante per tante ragioni, ma è una trasmissione sulla quale ovviamente, come ben sai, ci siamo sempre molto trovati bene e affezionati nel corso del tempo, e insomma anche le nostre chiacchierate telefoniche di questi anni sono sicuramente una cosa molto importante, quindi mi sa che un po' ti toccherà certo. La parte di monologo, perché secondo me ve la meritate. Certo. Allora Paco, come anche ti avevo anticipato l'altro giorno, è una presenza di oltre 20 anni, 23 anni se per fare un po' di numeri, cominciato a trasmettere qui in maniera abbastanza continuativa nel 95, con varie trasmissioni che si sono succedute poi nel tempo. Quelle tre che porto avanti da un po' di tempo sono una di teatro, il radioteatro, che è stata Martedì, e lì, anche lì, insomma, ho comunicato a chi ascoltava che si tratta di un momento di interruzione, e sia queste di cinema, Visionari nello specifico, che ha una lunga storia, viene dal 2000 che va avanti questa trasmissione, e un po' più recente Tracce di cinema, quella sulle colonne sonore, che curo insieme ad Ottavia Monicelli, che adesso, se la ritrova in mano, dovrà decidere cosa ne sarà, se proseguirla o meno. Io a inizio dicembre mi è venuto fuori questo pensiero che diceva basta, quindi è una scelta del tutto personale, e in tutto questo però mi ero preso qualche tempo prima un impegno per realizzare una serata di autofinanziamento di questa radio, che, come ben sai, vive di questo, non facendo pubblicità, vive dei contributi di chi l'ascolta, ma anche di chi trasmette da questi microfoni. E allora ho detto, in questo periodo cerco di portare avanti questa iniziativa ed elaborare anche questo pensiero che mi è venuto dentro e al quale dovevo dare ascolto, perché probabilmente si trattava di un accumulo che mi ha portato a questa decisione. E così è stato che abbiamo costruito al Nuovo Cinema Palazzo sabato scorso una grande festa di teatro e musica, una festa spettacolo con 14 uscite sul palco di vari artisti, tra attori, attrici e musicisti, che si sono alternati sul palcoscenico per esibizioni di 10 minuti a testa. Quindi è venuto fuori uno spettacolo, una serata a fiume di oltre 3 ore di palcoscenico, per un paio di ore e tutti i posti a sedere sono andati esauriti, quindi è riuscita anche bene dal punto di vista della partecipazione, qualche problema tecnico inevitabile. E qui, per esempio, mi piace ringraziare, oltre al Nuovo Cinema Palazzo e a tutte coloro che si sono adoperati per questa iniziativa, in particolare il Teatro dell'Assedio dell'area pisana, che pensa, per un'esibizione di 10 minuti, hanno preso con la macchina tutto il loro carico, sono venuti in gruppo per la serata, per esibirsi 10 minuti, per partecipare a questa festa di finanziamento, una festa spettacolo di Radio Onda Rossa. E questo, insomma, è un gesto che mi fa felice, è anche prezioso da tenere da conto. È anche meritato. Anche meritato. Perché bisogna anche dirlo, le cose, giustamente, ogni tanto, anche quando, insomma, va riconosciuto l'impegno e tutta una serie di percorsi che non durano per sempre, ovviamente, però, insomma, quando ci sono dei momenti dove è importante che le persone lo dimostrino, ecco. Sì, quindi sì. E quindi dopo la festa ho comunicato questa decisione, che, insomma, ho elaborato nel corso di questo mese e mezzo, alla redazione, e poi sono venuto chiaramente alla riunione di redazione lunedì sera, e venendo qui ho anche elaborato un'altra cosa, perché poi io nel frattempo ho aperto anche un blog sul quale poi la mia attività giornalistica continua, quindi noi avremo modo anche di risentirci in altre occasioni. Li pubblico i miei articoli e le interviste audio che realizzo, sia per il cinema che per il teatro. E venendo qui in riunione ho pensato che forse anche il materiale che realizzo sul mio blog, visto che ha una forma molto simile a quella di questa trasmissione, probabilmente è a disposizione, l'ho messo a disposizione, lo metterei a disposizione della radio in quei due spazi di cinema e teatro che nel corso degli anni ho costruito, il martedì per il teatro e il giovedì per il cinema, non a caso, perché poi il martedì è il giorno in cui spesso debuttano gli spettacoli e il giovedì è il giorno dell'uscita in sala per quanto riguarda i film. E quindi poi mi ha rincuorato anche la risposta della redazione, per cui mi hanno detto prenditi i tuoi tempi, la radio comunque è qui, è aperta, è a disposizione, e quindi questo mi ha rincuorato. Quindi quando all'inizio ho pensato questa cosa ho detto metto una parola fine, però può essere anche che invece si tratta di un'interruzione, di una fase, e poi vedremo, insomma. Però insomma c'è questa possibilità. E quindi Paco, a questo punto io ti ringrazio, è stato per me molto oltre che bello, è stato anche uno scambio molto molto fecondo questo che abbiamo portato avanti con te nel corso degli anni, in particolare rispetto anche a tutti gli altri ospiti che ho avuto nel corso del tempo. Quindi mi faceva piacere, ecco, che una parola fine o interruzione o quello che sarà, insomma, avesse un po' te come spalla, e mi hai detto che ti saresti vestito col vestito buono per questa occasione, spero che questo tu lo abbia fatto oggi, e io ti abbraccio. Anche io, mi raccomando, sono sicuro che qualsiasi forma avrà, sarà un arrivederci. Bene, allora ciao Paco e alla prossima. A presto. Ciao. Ciao. Ed è tutto per il momento, è tutto con Visionari, vedremo il domani cosa ci porta. Come dico sempre, buon proseguimento, alle 16 c'è Attica Blues e chissà, magari a risentirci.